questo bit, buonasera. Sandri, buonasera. Ciao carissimo. Ho detto stasera tutti in ferie, tutti a spasso, a divertirsi. Sandri, infatti, non ho sentito nessuno, ho detto, ma chissà come mai questo silenzio oggi. Vabbè, dai, già ci vuole fine settimana, è sabato, e quindi fa anche bene smaltire un pochettino e uscire. Che si dice di bello? Guarda, non è che ti possa dire niente di particolare, solito tran tran, solite cose, siamo sempre lì, dai, è come quando ti metti a fare un minestrone, giri e vedi sempre la solita verdura. Beh, in effetti è vero, io appena sono rientrato la giornata fa, devo fare una cosa, quando ero privato, mi sono guardato un po' il televisore, poi niente. Sono messo qua a ascoltare un po' di radio, ma c'era un silenzio mortale proprio, ho detto, forse stasera non c'è nessuno, poi sei entrato tu, e già va bene, dai. Dai, ma guarda, io sono abituato alla tranquillità, al silenzio. Infatti i miei 5 minuti, la mia mezza giornata, quando ho tempo me ne vengo in campagna, tranquillamente. La città io non la sopporto, non mi piace il caos e cose. Adesso, quando si era più giovane magari è diverso, però arriva una certa età e poi ti rilassi, capito? Gente a Sassari che vorrebbe scappar via, vorrebbe, secondo me, la tranquillità, non c'è prezzo da pagare, capito? Sì, è proprio vero, la tranquillità non c'è prezzo, è vero, che a me questo caos proprio non mi vada molto, molto bene, c'è tranquillità, pace e compagnia bella, si sta troppo bene. Ma la campagna sta troppo bene, la verità si dica, anche se stavo lavorando, però ti posso dire che c'era questo, solo gli uccidi sentivi e basta, poi del resto c'era una pace che differente. Esatto, sono proprio gli uccelli gli unici, guarda, che ti possono fastidio non te ne danno, ma diciamo come il rumore, come il cinguettio. Tu pensa un po' che io davanti alla casa qua c'ho un albero di noci, adesso vabbè, perdere le foglie e così via, ma quando comincia a primavera a togliere le foglie, a riempirsi d'estate, ti metti sotto, non ce n'è. È troppo bello quando si sentono gli uccelli cinguettare, fare il movimento, poi è un movimento tranquillo, non è come il classico caos di macchine, via, vai, bim, bom, e clac, se la compagnia bene. No, la campagna è tutta un'altra cosa, la verità si dica, anche se dicono, ma la campagna c'è da zappare, però come tranquillo. tranquillità non ce n'è per nessuno, e poi pian piano poi si può fare un po' di tutto, basta volerlo, non è che è ovvio, se scendi la campagna la manutenzione ci vuole, e c'è poco da lontano. Quello è senza ombra di dubbio, la manutenzione ci vuole, e se c'hai qualche pezzo di terreno davanti in giro lo devi curare, e se poi ti vuoi piantare qualche cosina, insomma tutte queste cosette dove ti impegnano, dove ci passi l'ora, tempo permettendo, insomma, e la manutenzione, e imbiancare, e se c'hai le finestre in legno e le porte in legno, insomma tutte queste cose, che poi ti dirò, se sei in un condominio devi pagare la quota del condominio, insomma invece qui sei indipendente, 10 ne spendi e insomma non devi dare conto a nessuno, perché là magari uno non le piace, l'altro non le sta bene, e allora è tutto un altro paio di maniche. C'è sempre il pro e il contro di tutte le cose, invece campagna quello che ti fai, sai che devo fare tu, sai che spendi quella cifra e la stai spendendo per te, e non devi dare reso conto a nessuno, e in effetti è vero, invece nel condominio ci sono sempre i soliti tram tram, è vero. Purtroppo il condominio c'ha i suoi lati positivi, i suoi lati negativi, quindi c'è poco da scegliere, tu devi afferire a molte cose, magari se sei il volume della televisione, il volume della radio, non fare casino, qua là invece in campagna. E chi ti disturba? Va. Insomma, perché neanche Gianni Capri 2 si è sentito stasera. Ma qua qualcosa da fare, non so. No, io la verità, proprio giusto, cambiando le due parole, sono stanco molto e poi anch'io vado nel riposo, perché domani mattina lo stesso siamo in trabacco, ui, e cosa vuoi fare? Cosa si può fare? Quando c'è bisogna andare, bisogna farlo, e quindi cosa vuoi fare? No, poi di questi tempi, è un casotto. Figurate, io non guardo neanche più il telegiornale, perché tanto se guardo il telegiornale, adesso sono un bel po' che non guardo il telegiornale, ma se guardo il telegiornale sono convinto che sono sempre lì a decidere cosa devono fare ancora. Ebbene, affitti, è vero, che poi le Ferrapa hanno sempre da dire le solite cose, né più né meno. No, io poco telegiornale, qualche volta è giusto entro qua in radio per ascoltare gli amici, e niente, qua c'è proprio scambio due parole, giusto per non stare sempre, diciamo, con le solite cose, si scambiano due parole, e tutto qua, e poi niente, dai. Tanto il telegiornale sempre è una cosa utile, ma non utile, diciamo, ecco, se proprio si vuole di la schietta. Di questi tempi il telegiornale non lo so fino a che punto possa essere utile, non lo so, guarda, ma comunque, cosa vuoi che ti dica? Facciano quello che vogliono fare, perché intanto che cosa fa? È come quel detto che dice, è lavare il culo ai bambini e boh. Sì. Sì. È proprio vero. Ma che ci volevo fare? Ma è proprio. No, ma è, non lo ogni volta che si accende è il solito tra, i soliti programmi, le solite cose, no? Che senso ha? Cioè, non aveva neanche voglia di guardare il televisore, ecco. Dal benessere siamo arrivati a avere tutto, perché cosa ci manca? Non ci manca niente, non ci manca nulla. Oggi appena nascono già hanno il computer e il cellulare, quindi sono già avanzati. Cioè non è come 20, 30 o 40 anni fa che era diverso. Era diverso, io mi ricordo quando andavo alle elementari, il primo regalo di Natale che avevo fatto era i soldatini con il forte Apache, cazzo, cosa bella era, cazzo. E la prima bicicletta l'ho avuta, mi sembra, a 12 o 13 anni, bicicletta, diciamo bicicletta, insomma, allora era diverso. Adesso siamo arrivati a troppo benessere, troppo, abbiamo tutto. Tutta l'evoluzione ha fatto cose allucinanti, capito? Ma comunque. E poi da una parte, ma non dall'altra, magari. Non è... Infatti. Hai proprio ragione. Purtroppo, il troppo benessere, poi, secondo me, distrugge anche la persona, perché oggi hanno tutto, vogliono tutto, pretendono tutto, e insomma, ai nostri tempi, io parlo, si può dire, della metà, io ho quasi 50 anni, così che qualcosa nella mia vita ho vissuto. E tutte queste cose, tutto questo benessere, non l'abbiamo conosciuto, la verità si dica. Però ci accontentavamo del poco. Oggi da poco non si accontenta nessuno, vogliono tutto e di più, il discorso è anche quello. Esatto, perché non basta mai, capito, non basta mai. Ma io mi ricordo di un particolare, io mi ricordo quando avevo finito le medie, è andato giusto così a cercare i primi lavori, i primi cosi, a fare il manovale, muratore, cazzo. Allora mi ricordo che c'erano ancora i cantoni bianchi, e la classica scala in legno, a gettare il solaio con le cardarelle, a rucola, con la carrucola a mano, cazzo, guarda, allucinante. Oggi c'è il motocarico, oggi c'è il camion con la gru, oggi a gettare il solaio arriva la motopompa, insomma è buono perché l'operaio magari non lo crepi, magari ti arrende di più. Io mi ricordo, cioè, quando facevo, eravamo al primo piano e stavamo portando su dei forattini. E ne prendevo 3 o 4, no? Li portavo su. C'era il maestro, mi prendeva a voci. E più ne deve prendere! Non stiamo passando a voci, a urla. Cazzo, io non sono durato. Sono durato una settimana. No, cioè, stavo tenendo. All'ultimo, cazzo, il giorno, cazzo, scende quei 3 o 4 forattini, tira, molla, e fa. E poi dovevo accudire per dire a 2 muratori, non a 1, ma a 2, cazzo! La sera, cazzo, era a 1000, a 10.000, però la stanchezza magari non la sentivi, sentivi un grillo, un ragazzino. All'ultimo, cazzo, sono arrivato, si mettono tutti e 2 a voci, prendo il forattino, li sbatto a terra. Cazzo, mi metto, vai, adesso i forattini te li porti tu, io me ne sto andando. No, cazzo, che mi amavo i cascini, la poi non mi interessa, beh, andato me ne sono. ormai è così. Poi purtroppo prima era così, assistere 2 maestri, 3 maestri, io ne ho fatto gambetta anch'io, per carità. Bene, purtroppo pretendevano dare pochi spiccioli e lavorare, fare il lavoro di 7 persone, ma finché appunto dura una persona, io penso che se poi una settimana è anche troppo, perché quando si dice a quei ritmi lì è purtroppo era vero. C'era conosciuto anche il cartone già, io già ne ho messo passate due in mano, ma purtroppo adesso c'è tutto e vogliono di più. Infatti, si vede il mondo come sta andando, diciamo che prima magari era troppo da una parte, oggi è troppo dall'altra, perché hai tutto. Oggi, vabbè, dipende magari dove lavori, perché magari non passa il mezzo, per qualsiasi difficoltà, però insomma c'hai un mondo a carico, per dire ti aiuta, se sei a un secondo piano, oggi c'è la betoniera, insomma un operaio piccolo quanto sia, un artigiano piccolo quanto sia, la betoniera ce l'ha, quindi insomma eviti di impazzare a mano. Insomma, oggi è molto più leggero, questo sì. Diciamo che il lavoro di muratore è sempre faticoso, perché è faticoso, non è che sia perché oggi metti pochetti, domani stai tonacchiando, domani stai facendo pavimento, sì, c'è con la schiena per terra, insomma è sempre un lavoro faticoso, però insomma nei suoi sensi, diciamo, al giorno d'oggi è più avvantaggiato, perché ci sono le attrezzature che te lo permettono. Però sai, o perché ne vogliono di più, devi arrendere, o perché i prezzi sono quelli che sono, allora devo passare i prezzi, devo recuperare i metri, c'è sempre il ghippo, c'è sempre il prego. Sempre il trippo lo trovano. Purtroppo, per la crisi che c'è, bisogna abbassare la testa, Sandri, bisogna abbassare la testa e tirarci la giornata, perché oggi ci abbiamo tutto, però c'è poco, lavoro. Lo so, c'è poco lavoro perché si è fatto tutto, se non so, forse sarà il meccanismo sbagliato, sarà il modo di, non lo so cosa sia, non lo so, capito, però andando avanti in questo modo, allora succede che non lavora più nessuno, e se non lavori devi guadagnare, lo stipendio te lo devi portare a casa, insomma qualcosa bisogna pur fare, tutto lì. Va bene, dai, mi aspetto un attimino che mi hanno chiamato. Se ci sei ci sentiamo più là, dai. Va bene, salve, dai. Buon tutto, e se coincide più tardi, se no ritieni salutato, salve. E tutte le prossime.